Se domenica Ronaldo fa la stessa cosa di Insigne, viene mandato negli spogliatoi? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non potete rovinare delle partite così, non potete! A meno che non ti viene così e te lo dice apertamente, dai! Te l'ho detto da lontano! Ma devi capire pure il momento, hai dato un rigore, dato, dai! Cioè, ma se uno può stare nervoso che dagli il rigore, no! C'è l'arbitro che fa finta di non sentire e l'arbitro che applica il regolamento. Adesso è Insigne che ha sbagliato a mandare a fan l'arbitro. Capitano si becca due giornate. È sempre fuori luogo la parolaccia, quindi va sempre espulso la... Ogni volta che io sento cazzo, merda, voglio il rosso, a tutti. Le partite finiscono 4 contro 4, così deve essere. Le partite devono finire in 4 contro 4. No, scusate, devo insegnare ai miei ragazzi che non possono mandare a cagare l'arbitro e potranno farlo solo se diventano professionisti? Una partita scandalosa! Un rosso che non si è capito, forse è inesistente per me. Arbitro, fatti a fare un esame di coscienza negli spogliatoi e pensa a quello che hai fatto stasera. Una partita scandalosa! E il maestro Pietro Corti in regia, grazie, bravissimo, come sempre. Marco Santoro, oltre a Giorgio De Luca, nume tutelare in redazione, il radio cinguettio di Pierluigi Pardo che arriva adesso, subito. Sì, che faccio su Fiorentina, Toro e Genoa, che in questo momento sono accomunate da un destino simile, a grandi piazze, grandi tifoserie, grandi ambizioni, grande storia, anche se tutte e tre flirtano da un po' con i rischi e le paure della retrocessione, cioè non è una novità di quest'anno, però lì il problema è proprio quello di entrare nella mentalità, perché sono squadre nate, costruite non con l'idea di dover lottare per la salvezza, e quindi è un pericolo in più, però meglio, paradossalmente meglio dopo 12 giornate che dopo 25, insomma, ci sono tutti i margini anche dal punto di vista del mercato per risistemare le cose. Grandi storie e piccole classifiche in questo momento per queste nobili un po' in disarmo, in disuso. Allora, turno di mezza settimana, avete sentito un po' di umori da web, molto divertenti, stiamo tranquilli ma molto divertenti. Turno di mezza settimana incasinato non poco per gli arbitri, appunto, tra i riguardosi inviti e ricadute nell'abisso. Scusate, mi è scappata, però non ho potuto fare a meno di anticipare Varanatomi raddoppiando l'appuntamento della domenica. Ciao Luca Marelli. Ciao a tutti. Ciao. Senti, ricadute nell'abisso, brutta, vabbè, lo so, scusatemi, ma mi è scappata. Ieri sera, sinceramente poco difendibile, no, l'arbitro di Roma-Torino in questa settimana così complicata. Guarda, obiettivamente sì, hai ragione. La partita di ieri sera di Abisso è stata molto molto negativa, non si può nasconderlo, è eccessivo quello che abbiamo letto oggi, perché io sai che sto cercando di essere sempre molto equilibrato, però quello che abbiamo letto questa mattina è decisamente eccessivo, cioè è vero che è stata una partita negativa, ma non esageriamo con gli epiteti, perché poi dopo alla fine dobbiamo sempre considerare il fatto che tutto ciò che leggiamo si ripercuote anche sulla vita di ogni giorno. Quello che a me interessa, credo che voi l'abbiate capito abbondantemente da parecchio tempo, non è tanto la difesa di un arbitro o di un altro rispetto a una direzione di gara. Mi interessa evidenziare episodi e soprattutto far capire che i comportamenti di giocatori, dirigenti delle massime categorie, poi dopo si riverberano anche soprattutto nelle categorie inferiori. È per quello che sono stato molto critico per quanto riguarda Gattuso, poi magari ci torneremo, sì. Perché non si può sdoganare un comportamento di quel genere. Cioè, non si può pensare che un arbitro possa essere mandato a far bisogni nel caso in cui non ci sia accordo dei giocatori, perché altrimenti poi nelle categorie inferiori succede tutte le domeniche e non siamo in Serie A, in una categoria nella quale gli arbitri sono tutelati, magari insultati, ma tutelati. Mentre invece nelle categorie inferiori non ci sono neanche le forze dell'ordine, diventa molto pericoloso una dichiarazione di questo genere. Sì. Molto pericoloso. Poi è tutto il contesto che hai detto, no? Comunque l'atteggiamento dell'opinione pubblica molto duro certe volte nei confronti degli arbitri non è un invito ad andare, non è un irriguardoso invito, ma non ci va tanto lontano come effetti. Anche Casarin, leggevo oggi, Pierluigi, su Corriere della Sera, si è schierato contro l'interpretazione del momento della partita. Ora, al netto di tutte queste discussioni di Gattuso, abbiamo parlato abbondantemente ieri e credo siamo tutti d'accordo, tutti concordi appunto nel dire che quello che ha detto nel dopo partita non ha diritto di cittadinanza. Però io continuo a pensare che lo spirito del gioco, il contesto, il momento per l'appunto vadano tenuti in considerazione dal bravo arbitro. Tu che dici? No, io sai come la penso, dico di sì, ma dico anche, poi voglio sentire Marelli su questo mio umile, su questa mia umile proposta, che il problema è che l'insulto è un tipo di fattispecie che da regolamento, secondo me, è troppo pesante come sanzione. E quindi, essendo secondo me troppo pesante un cartellino rosso per un insulto, quando poi ci sono degli interventi che spaccano le gambe, che delle volte prendono il giallo sarebbe la soluzione. Il giallo renderebbe gli arbitri molto più tranquilli e molto più sereni nel poter prendere un provvedimento come quello. Ma ovviamente non è una cosa che possiamo decidere noi, è una cosa che deve passare a livello di board, a livello di, quindi non è, in ogni caso si fa dall'anno prossimo. Però secondo me la fattispecie è questa, perché è vero che ci sono arbitri che a volte non sentono, è vero che ci sono arbitri che a volte fanno forse anche finta di non sentire, degli illustri colleghi di Luca come Graziano Cesari l'ha detto. Lui l'ha detto candidamente l'altro giorno, no? Magari cerchi di non andare nel luogo dove sai che c'è il giocatore nervoso che ti potrebbe insultare, è altrettanto vero che poi l'insulto non va fatto, questo è il punto di partenza, eh? Cioè, capiamoci, perché se no è stato applicato il regolamento l'altro giorno, è stato applicato il regolamento, punto. Sì, sì, la verità sì. Però è che alcune volte questo regolamento non viene applicato. No, ma no? Appunto. E non viene applicato per una sorta, diciamo, di buonsenso, di quieto vivere, eccetera eccetera, che però è anche per non finire le partite 3-2, e quindi il cartellino giallo secondo me sarebbe la soluzione, perché a quel punto hai una sanzione secondo me più commisurata alla gravità di quello che si fa, che è grave ma che non è la fine del mondo. Mandare a Kager un arbitro per me non è la fine del mondo come un intervento brutto invece dal punto di vista fisico. Questo secondo me risolverebbe un sacco di problemi, questa è la mia idea. Luca? No, sono totalmente in disaccordo, mi dispiace, ma questa volta con Pierluigi non sono per niente d'accordo, capita raramente, ma questa volta bisogna scindere due elementi, c'è la parte tecnica e la parte comportamentale. La parte tecnica, l'intervento falloso, anche pesante, fa parte comunque del gioco e ci sono le sanzioni disciplinari, giallo e rosso, proprio per questo motivo. Per quanto riguarda il comportamentale, invece, sono delle linee che devono essere rigide per tutti. Perché se sdoganiamo questo ragionamento, allora a questo punto anche gli arbitri possono insultare i giocatori. Ma se dovesse mai succedere che un arbitro insulta un giocatore, viene fuori il finimondo. Perciò deve esserci rispetto da parte di entrambi. Certo. Se un giocatore a livello comportamentale si permette di utilizzare terminologie come queste, soprattutto a gioco fermo, che c'è una grande differenza tra gioco fermo e gioco movimento, certo, a gioco fermo certo. non è tollerabile un comportamento di questo genere. Lo dico chiaramente anche io. Durante le partite, quando arbitravo, e non è cambiato molto da 10 anni fa ad oggi, capitava di insultarsi tra arbitro e giocatore, ma non a gioco fermo. A gioco movimento, perché non ce ne si mandava a dire, però c'era quell'atteggiamento lontano dalle telecamere, lontano dall'attenzione, lontano dal fulcro del gioco, nel quale ci si metteva a posto, dopodiché ci si stringeva la mano, si dava un 5 e succedeva spesso, però a gioco fermo 30 secondi dopo con il giocatore, diceva prima che non bisogna andare nel fulcro dove ci sono giocatori che potevano, sì ho capito, ma a gioco fermo come si fa? Sono i giocatori che inseguono l'arbitro. Il gioco movimento è chiaro. Ma io Luca, oltre a dirti che chiaramente la dialettica non essere d'accordo ci sta, insomma, voglio dire, certo. Parte, è uno dei presupposti della, della democrazia. Io dico che per gli arbitri sarebbe uno strumento in più, perché avresti a disposizione uno strumento regolamentare che ti consente di sanzionare una cosa che va sanzionata, ma senza creare, secondo me, tutta una serie di distinzioni. Già questa cosa tu dici, io lo capisco perfettamente che c'è differenza fra gioco fermo e adrenalina dell'azione, però nel momento nel quale viene dato un calcio di rigore e il giocatore è in disaccordo, siamo ancora nell'ambito dell'adrenalina dell'emozione di un provvedimento, giusto, andava espulso, cioè io non, sia chiaro, non sto facendo un discorso, abbiamo messo giustamente la croce addosso a Vidal e l'Inter forse è uscita dalla Champions League per quella protesta di Vidal, quindi non è che siamo, non stiamo, io almeno non sto discutendo la fattispecie dell'episodio. Però fammi dire questo, alla fine viene fuori questa sorta di discorso che io non accetterò mai, che non va accettato, che l'arbitro deve tutelare una partita, perché lasciare in inferiorità numerica una squadra che ha subito un rigore è contro spirito del gioco. Allora l'arbitro non deve tutelare il gioco, l'arbitro deve far rispettare il regolamento. Se il regolamento non viene e c'è una parte specifica sulle proteste, sul comportamento ingiurioso dei giocatori in campo, c'è proprio una parte specifica del regolamento. Se un giocatore non è in grado di controllare la sua adrenalina in quel momento, va a farsi la doccia, e che si chiami Insigne o Pinco Pallino. E dobbiamo ricordare che Insigne ce n'è uno e di Pinco Pallino ce ne sono migliaia. Secondo te, Luca, tutte le volte che c'è un baffa nei confronti dell'arbitro viene sanzionato col rosso? Allora, Pierluigi, io ti dico questo. Il tema nella è questo. Mia carriera, sì, nella mia carriera, un baffa o un va a gioco fermo è sempre stato punito col cartellino rosso. Un baffa durante la partita, no. Ma è diverso. E questa è la differenza. Non è facile da capire, perché arbitrare non è per niente facile. Perché se un arbitro decidesse di essere rigido contro ogni parolaccia, dopo un quarto d'ora si è già 9 contro 9. Mm-hmm. E beh, questo sì, questo è indiscutibile. Luca, ci sentiamo domenica. Grazie. Va bene. Ma Luca, secondo me è questo il tema. Però tu hai ragione. A me va benissimo, attenzione, a me va benissimo, basta che ci sia uniformità assoluta da questo punto di vista. La distinzione che tu fai è solare, importantissima, perché un conto è se io posso pensare a una cosa e darti dell'arbitro scarso, addirittura dell'arbitro corrotto, che è ancora peggio, piuttosto che se invece ho una reazione istantanea, emotiva, legata a un gesto tecnico che sto facendo, eccetera, eccetera. Quindi questo secondo me è interessantissimo che tu l'abbia sottolineato. Per me basta che ci sia uniformità, poi se si decide che deve essere rosso, però che venga applicato sempre, ecco. Tutto qui, e onestamente io non so se è così, sinceramente non so se è così. Poi aggiorniamo, ha sbagliato Vidal con Real Madrid, ha sbagliato anche Gattuso, ha sbagliato di dire quelle cose, ma credo che sul punto siamo tutti d'accordo fin dall'altro ieri sera, insomma. Allora, a proposito di Abisso, abbiamo un montaggino, così introduciamo anche il prossimo ospite, e vorrei andare oltre che sui fischietti, ma so che a voi piace, 800240024 numero verde, su quello che ha detto tra gli strilli questo turno infrasettimanale di campionato. Io credo che la seconda ammonizione sia un po' regalata, tra virgolette, nel senso che il calciatore era stato ammonito un attimo prima, giustamente, mi è sembrata una roba un po' veniale, né? Siamo qui a lamentarci perché abbiamo 6 punti, ci stiamo lamentando perché non è la prima volta, qui c'è un errore chiaro. Dunque, quello che è successo ieri sera all'Olimpico lo conosciamo, però nel salutare Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, il nostro amico, ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Vorrei far notare che tra tutti questi strilli, tra quelli che analizzavamo prima di Gattuso, del Napoli, eccetera, quelli del Torino, eccetera, tra tutti questi strilli, il dato politico, come piace dire al mio amico Pierluigi, è che Inter e Roma vincono la tappa di mezza settimana, e questo è un fatto e si legge nella classifica. Sì, è vero, la vincono in maniera differente, l'Inter, diciamo, approfittando dell'episodio e della sfortuna anche del Napoli, però si porta seconda e dimostra di avere comunque una squadra forte, una rosa attrezzata e ancora moltissimi margini di miglioramento, il che me la fa preferire al Milan, proprio perché il Milan secondo me sta già facendo il massimo quasi, mentre l'Inter ancora può dare tanto, e la Roma è in una partita che invece gioca a ritmo basso, col freno a mano tirato, ma che si trova quasi a vincere senza giocarla, perché dopo un quarto d'ora l'espulsione di Singo e il successivo poi gol di Mkhitaryan praticamente chiudono una partita che non è quasi mai iniziata per il Torino per colpa dell'arbitro, e perché si è messa così da subito in una situazione in cui il Torino, chiaro che la Roma è andata sul 2-0 e praticamente non l'ha giocata, tanto da addirittura rischiare qualcosa, perché quando poi tu smetti di giocare non è facile riprendere e riaccendere l'interruttore. Per cui la Roma, diciamo, meno brillante dell'ultimo periodo, la chiude. E questo, nel ricollegarci con Andrea Di Caro, può essere un buon segno, Pierluigi, secondo me. Ma per io, la Roma, sulla Roma, sai quello che penso, sì. Lo dico da quest'estate e si sta verificando, cioè la Roma è una buona squadra, poi non ha secondo me la rosa per poter pensare di vincere il campionato, però è una squadra che può provare secondo me a arrivare fra le prime quattro, perché ha tanto talento, perché secondo me contrariamente agli anni scorsi è partita anche un po' in sordina, questa cosa ha fatto bene, perché Friedkin io non l'ho mai sentito parlare, e questo è un punto, cioè non che parlare sia un problema, io faccio giornalista, quindi figurati se posso non amare le interviste o le dichiarazioni, però secondo me in un ambiente bellissimo, caldo, e che però non ha bisogno di particolari pressioni, perché tanto è già caldo di suo, è già innamorato di suo, come quello della capitale da una parte e dall'altra, avere un proprietario che sta lì e che non si fa aspetta che hai ripescato il tuo vecchio telefono, non ti muovere che poi ci parliamo con calma. Intanto, tornando sull'Inter, è tornato Andrea Di Caro nel frattempo. Questo che è accaduto, chi è, Pierluigi Pardo? Certe volte mi sembra di lavorare. Hai presente quei film dove c'è quella che infila gli spinotti? Pardo, c'è ancora il cellulare degli anni 90, è un nostalgico. Fine anni 80, di quelli a forma di cassetta. 80. Senti, Andrea. Torna a casa e si vede VHS. Esatto. Sull'Inter, invece. Sì. Dicevamo, l'Inter di Lutero Conte riesce ad esprimere, mi viene da dire, quella capacità di sofferenza che manca alla Juventus. Ne parlavamo prima, ne parlavi tu prima. Sì, cioè l'Inter ha una sua, nel momento più difficile della sua stagione, quando è uscita da tutte e due le competizioni europee, perché dalla Champions, ma non ottenendo neanche l'Europa League, in realtà era all'orlo del burrone, probabilmente Conte anche sull'orlo di una difficile gestione ambientale, in realtà poi ha recuperato 4 punti in 2 partite al Milan, vincendo nell'ultimo quarto d'ora a Cagliari e poi superando il Napoli con una partita molto tattica, non particolarmente brillante, anzi diciamo pure poco brillante, ha fatto vedere più cose il Napoli dell'Inter, però la partita l'ha vista l'Inter, il che dimostra che questa comunque è una squadra tosta, forte, piena di giocatori, di alternative, e che anche se ancora non è brillantissima, in qualche frangente si fa prendere dal braccino, come dice Conte, però è lì, a un punto dal Milan. Era una delle favorite, se non la favorita principe dello scudetto di quest'anno. E lo resta, lo rimane. E lo resta, e lo rimane, cioè anche perché bisogna immaginare, l'Inter avrà dei margini in più di miglioramento rispetto a quello fatto vedere finora? Io credo di sì. E la Juventus? Anche la Juventus ha quei margini. Però non ha la capacità luterana di soffrire come l'Inter, è quella che chiede Pirlo sostanzialmente. E poi c'è all'interno degli svantaggi di uscire dall'Europa, c'è il vantaggio di avere una competizione sola. Cioè, se a Conte adesso lo liberano da alcune cose che lo disturbano, io non voglio neanche dire che siano per forza aspetti negativi per l'Inter, sicuramente lo sono per il suo allenatore, cioè una rosa troppo ampia, dei giocatori che lui evidentemente non vede, non sopporta, non trova sinergici, li trova addirittura negativi, e quindi si libera di qualche giocatore di troppo, fa una rosa più snella ma più adatta all'idea dell'allenatore, non so se acquistando, potrebbe bastare anche solo cedendo, lui si fa il suo gruppo, c'ha soltanto il campionato e ha tutte le caratteristiche per arrivare in fondo. Poi certo, se la Juventus esplode Dybala, Ronaldo resta ai suoi livelli, si inseriscono al meglio Chiesa e Kulusevski, chiaro che la Juventus pure c'ha una corazzata, però complessivamente io mi aspetto sempre dalla Juventus delle prove di forza, no? Che in queste prime 13 partite, a parte la gara di Barcellona, non ho visto mai. Hai ragione. Sono sei pareggi in 11 partite, perché ovviamente Juve-Napoli, che conta in questo momento dal punto di vista della classifica, e come, però è una partita che non si è giocata, quindi sono sei pareggi su 11 giornate, sono troppi, e la pareggita non è un buon segno, perché di solito le squadre molto ciniche pareggiano poco, se vanno in vantaggio non si disuniscono. Alla Juve quest'anno è capitato di subire parecchie rimonte, mentre l'Inter ha fatto tante rimonte, cioè sono tutti piccoli segnali, sono tutti piccoli exit poll. Poi io credo che la Juve abbia una forza di organico comunque importante, quindi assolutamente assolutamente se la giocherà fino alla fine, però sono d'accordo con Andrea. Invece sulla Roma non so, la linea era caduta nel mitico sottopasso che porta verso la stazione Termini, che Andrea conosce molto bene. Carlo ti ha attaccato, ha detto che sei un nostalgico, che io invece ti ho difeso, ho detto che sei un giornalista moderno, che c'hai tutte le apparecchiature. Lui dice che tu ti vedi VHS, te voglio bene, ma sei bugiardo, sei peggio di Pinocchio, Nokia 70 eccetera. Guarda, proprio non ti fidate degli amici, che sono tremendi, No, ce l'ho quel telefono lì, ce l'ho. No, comunque la Roma, e voglio sentire anche che ne pensa Andrea, secondo me ha una combinazione interessante, che non so dove la potrà portare. Però quest'anno è un anno partito un po' in sordina, con un nuovo proprietario che fa i fatti e di cui non abbiamo ancora sentito la voce. No, però lo vediamo che parla con Malagò, lo vediamo operativo, non è che sì, lo vediamo assente, lo questo è fondamentale. Cioè, noi siamo passati, per quanto riguarda la Roma, da una gestione nella quale c'era un presidente che parlava moltissimo, con dei grandissimi proclami, e che a un certo punto è diventato invito ai tifosi, a una nuova società che fa le cose, da quello che sappiamo tutto funziona, nel senso che in un momento di crisi economica comunque gli stipendi vengono pagati, le strutture sono di un certo livello, il mercato che si doveva fare alla fine è stato fatto, i giocatori che non dovevano essere venduti alla fine sono rimasti, cioè, non è arrivato Milik, non è partito Dzeko, è arrivato Kumbulla, è arrivato Smalling, cioè questo sta funzionando. Secondo me anche il fatto che la squadra sia partita un pochino più affari spenti rispetto agli anni scorsi gli sta dando un vantaggio. Non c'è dubbio. Dove questo potrà portare, non so. La Roma però di Friedkin deve ancora nascere, io credo. Questa è semplicemente la prima propaggine. Poi, come sempre, l'abbiamo imparato con le proprietà straniere, si arriverà al momento, che è capitato per tutte le proprietà straniere che sono passate, che sono ancora qui, si passerà attraverso il nodo. Allora, sto stadio o famo o non famo, chiedere a Commisso, chiedere a Pallotta prima di Friedkin, insomma, perché chiedere a Gazzidis, che l'ha detto anche l'altro giorno, perché alla fine si arriva a quel nodo lì, Andrea. Però io penso che la Roma abbia, poi ti dico un'opinione su Friedkin proprio in 10 secondi, ma prima ancora sull'aspetto tecnico-tattico che segnalava Pier. La Roma è una squadra bella, divertente, piena di soluzioni, piena di giocatori con margini. Per esempio io sto vedendo un Villar che mi sembra abbia un futuro luminosissimo davanti e che cresce di partita in partita. C'è Pellegrini che può giocare in più ruoli, c'è Veretout che mi pare calato nel suo, adesso proprio nel suo habitat naturale di leader del centrocampo, di leader muscolare del centrocampo. Funzionano benissimo in questa fase i due esterni, Karsdorp e soprattutto Spinazzola. Ha come trequartisti Pedro e Mkhitaryan. Mkhitaryan è la sua migliore stagione forse in assoluto. Dzeko ancora non benissimissimo, però insomma è un giocatore che sappiamo e che conosciamo. La difesa si è assestata. In porta forse manca qualcosina, però complessivamente ci sono tante soluzioni. Quindi cosa può mancare alla Roma? Secondo me anche lì un segno di forza. Cioè la Roma ha pareggiato con la Juventus meritando di vincere ma non vincendo. Ha pareggiato a Milano col Milan, una partita che forse poteva vincere ma che stava quasi per perdere. Ha perso male a Napoli. Adesso arriva la gara contro l'Atalanta a Bergamo. Cioè, per capire se la Roma è solo una squadra bella da primi quattro posti o può recitare un ruolo da protagonista, serve anche lì una prova di forza che faccia passare questa squadra da bella a anche molto solida e caratterialmente forte. Anche qui condivido. Quanto a Friedkin invece sono curioso. Quanto a Friedkin sono curioso anch'io di conoscere meglio questa proprietà, perché diceva bene Pier, cioè non parlano, non sappiamo neanche che voce hanno, se acuta o profonda. Di una cosa è certo però, che stanno studiando nei minimi particolari non solo la società ma anche l'ambiente intorno, parlano pochissimo ma la studiano molto, sono venuti a Roma da sei mesi, praticamente non se ne sono mai andati, non solo il figlio ma anche il padre, che quindi è il capostipite dell'impero finanziario. In questo c'è una differenza con l'Inter di Zhang, dove è rimasto il figlio ma il padre non si vede mai. Probabilmente la forza economica è diversa, nel senso che quella di Suning è più forte di quella di Friedkin, ma evidentemente l'investimento che loro hanno fatto sulla Roma è per loro un investimento importante, sì, prioritario, principale, perché altrimenti non ci passerebbero così tanto tempo e non ci sarebbero così sotto, il che mi fa pensare che magari non sperpereranno i loro soldi, ma che vogliono studiare attentamente che cosa è la Roma e che cosa può dare, il che secondo me nel calcio è sempre un aspetto positivo. Grazie Andrea. A presto. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, ti abbraccio anche, ciao. Anche se qualche volta dici le bugie, a Pardo, naturalmente. Non agli ascoltatori. L'amicizia. Beh, bravi, mollatemi da solo come sempre. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Al volo prima della borsa, dica. Ma io volevo raccontare una storia, che una strana storia del calcio italiano, che forse a molti è un po' conosciuta, è quella che si riferisce adesso alla partita che giocherà l'Inter con lo Spezia. E molti probabilmente non sanno che l'Inter alcuni anni fa entrò nella partecipazione azionaria dello Spezia, cioè comprò il 30% dello Spezia. Che cosa accade? Accade che la motivazione era quella di creare una piccola cantera, no? Per i giovani. In realtà la motivazione era un'altra, c'era uno stabilimento, un deposito della Saras in un paesino fra Spezia e Sarzana, dove c'era un progetto di conversione industriale. Quel progetto andò a monte e l'Inter si ritrovò comunque col 30%. Chiedete a Beppe Bergomi, che era stato consigliere d'amministrazione, chiedete a Piero Ausilio, che fu il direttore sportivo, e chiedete poi anche al futuro presidente dello Spezia, quando l'Inter fu costretta a comprare il 100% della squadra, perché i proprietari allora non erano in grado di gestire. Quindi, per cui arrivò il futuro poi amministratore delegato dell'Inter, che adesso non ricordo il nome, insomma, adesso Paolillo, che Paolillo, presidente dello Spezia, Paolillo. Beh, morale la favola, andammo avanti fino a che a un certo punto la Liga non accettò che l'Inter fosse proprietaria di due squadre, sì. Per cui l'Inter dovette ricedere questo 70% a un signore che arrivò e che portò lo Spezia in Serie B per la prima volta dopo 45 anni. Morale, sì, si profila, sì, questa specie di derby, ma sono tutti fatti noti, insomma, sappiamo com'erano le regole prima, sappiamo quali sono le regole di adesso, ed è in effetti una storia all'interno di questa partita che vedremo domenica pomeriggio. Borsa, torniamo. Insigne poi poteva stare bello tranquillo, c'è il VAR, decideva il VAR poi sul calcio di rigore, altro che dir parolacce, mica parolacce. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. And the winner is Robert Lewandowski. Al di là delle faccette scontente di Ronaldo, se c'è un atto di giustizia è questo: Lewandowski, miglior giocatore, programmato miglior giocatore FIFA World Player del 2020. Mi sembra quasi banale e quasi scontato. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Ciao. Insomma, ma secondo me sai che stavo facendo una riflessione. Secondo me Ronaldo ormai lo fa apposta. È un grande attore. Tu dici? Secondo me lo fa apposta. Finta perché adesso è incazzato. Sì, perché allora io stavo lo dipingono così come Jessica Rabbit. No, ma ormai per me è un grandissimo attore. Perché quando si arrabbiava veramente era un altro. Cioè, sono passati quanti? 10 anni, 8 anni da quando ci restava male. Adesso, ma voglio dire, lo sa benissimo anche lui che quest'anno quel premio, ma chi lo devi dare? Ma abbi pazienza, si è pigliato tutto segnando 100 gol, come fai appunto, a discuterlo? E lui fa quella faccia, per me, io da oggi, ti giuro, più guardo quella foto, che è diventata virale, tutti lì a mettere, no? Dice no, un rosicone, io ti giuro oggi penso che sia un genio, per me l'ha fatta apposta, piacerebbe chiederglielo e lui te lo direbbe perché è un onesto, però dai, lo sapeva. Cioè, si può discutere sull'allenatore se vuoi, quello ma sul vuoi. Giocatore non si può discutere. Non so, chiedo a professore di comunicazione Pierluigi Pardo, sei d'accordo con l'Ode Ricci? quella faccia. faccia lì, beh, quella faccia lì è strepitosa, strepitosa. Dai, è bellissima, Pier. Lo fa apposta. No, è senza filtri. Ma guarda, è bello in tutti e due i casi, nel senso che se non l'ha fatta apposta è bella da un verso, brutta da un altro se vuoi, però io propendo più per la parte bella. No, sono d'accordo con te, propendo più per la parte bella, nel senso che poi quello che fa la differenza fra i grandi, i grandissimi dello sport e quelli che non diventano grandissimi è in larghissima misura il talento, ma anche la voglia. Questa voglia non è facile da misurare, che è il famoso discorso che facciamo spesso, le squadre, nessuna squadra vuole perdere. Però c'è qualcuno che in una scala da 1 a 100 vuole vincere 95, qualcuno 97, qualcuno 100. E qualcuno 110, e alla fine quel 110 gli fa la differenza, lui è così. Quel broncio è la chiave, dai, Cioè, però guarda, per perché, me comunque perché tu dici resta... che se scrive complimenti a Robert Lewandowski nessuno lo meritava più di lui, non è più Ronaldo. Ma figure, ma no, okay. Se fossi non lo deve scrivere, no? Cioè, no, lui dovrebbe dire complimenti a Lewandowski, se te l'hai meritato, ma rosico. Questo dovrebbe dire. No, comunque, secondo me sono meglio io. Cioè, una cosa così. Però sì, va bene, quello che vuoi, però io sono più forte. Un po' la Ibra, okay. Se vuoi. Ibra, cioè, ci ha costruito siamo? Tutta la sua... 6-1 Esatto. Bravo. Quanti anni hai il primo che vinci? Non so, una cosa così. Sì. Cioè, perché va bene, alla fine voglio dire, dobbiamo anche sdrammatizzare. Cioè, insomma, prima cosa, già è surreale che France Football decida che non dà il pallone d'oro. Già mi sembra. Vabbè, e questo è. E poi allora dico: siamo, è un anno così particolare. Ecco, a me piacerebbe che i giocatori più di tutti sdrammatizzassero. E io non so, ho questa cosa. Ovviamente non è basato sul niente. Ho l'idea che. Alla fine Ronaldo sdrammatizza in questo modo, con quel suo broncio, quel suo... E poi comunque anche se rosica va bene, cioè appunto ti dice che tipo di campione è, mai contento. Tanto questa serata ovviamente tutta virtuale, eccetera, come secondo la moda del trend del momento, grande tributo a Maradona e a Pablito Rossi a proposito dei premi, speriamo che venga... Che passi presto quella mozione d'ordine di Radio 24 del calcio italiano, cioè premio di Piccici del campionato italiano dedicato bellissimo, a Paolo Rossi, bella, no? Intitolabile. Dario Ricci, diamo a Dario quel che è di Dario, idea bellissima, sono d'accordo. Semplice. Troppo. Famolo presto. Ma sì, dai, magari, dai, sono belle cose. Sì. Invece, volevo sapere prima di parlare di Lutero Conte di Calvino Simeone. Volevo sapere come siete messi in Spagna al capitolo insulti di campo agli arbitri. Ma come guarda, vengono qui puniti, devo dire, tollerati, intollerabili, intollerati? Io su questa cosa qui sono stato prima in Inghilterra, poi sono venuto in Spagna. Sì. E quando io in Inghilterra è vero che lì. Li mandano a quel paese, però a me non mi è mai piaciuto, cioè l'ho sempre trovato assolutamente volgare e assolutamente, come si può dire, inadatto, fuori luogo, no? Per cui non lo vedo, io ho capito quello che voleva dire Gattuso, però per me, prima cosa, l'Inghilterra come esempio, diciamo, ci penso sempre tre volte a prenderla come esempio, qualsiasi cosa, però a parte questo, se uno insulta, non è che dice, lì insultano, non succede niente, allora dobbiamo insultare anche noi. Io non sono d'accordo. Qua in Spagna non si insulta e se si insulta si viene sbattuti fuori. La cosa è che ovviamente deve essere, ci vuole un criterio di uniformità, cioè vale per tutti. Sì. Questo, quello che diceva io prima Pierluigi. Ecco, appunto, non l'ho sentito, esatto. Cioè, vuol dire, se si insulta, però perché se tu devi protestare, si può protestare in maniera civile, cioè vuol dire, non c'è bisogno di mandare a quel paese l'arbitro, gli puoi dire guarda che ti sei sbagliato, così, poi dopo. Io ti dico, in Inghilterra, ma sempre è vero, quella cosa che dice Gattuso è vera, poi lui ci ha giocato in Scozia, così, però non va bene, cioè non è che dice perché lo fanno là, lo dobbiamo fare pure noi, assolutamente no. Io la vedo così, per me si può protestare in maniera civile, insomma, però se mandi a cagare l'arbitro, per me è giusto che ci sia una sanzione, poi, che deve essere uguale per tutti. Sì, poi appunto uniformità e poi comunque... Il tema è quello, Filippo, io sto in solitaria combattendo da ieri una battaglia dicendo che sarebbe tutto molto più facile se fosse un giallo e non un rosso, perché secondo me sarebbe molto più facilmente applicabile, è giusto che venga applicata, perché l'insulto è una cosa brutta. Poi l'insulto reiterato può portare anche a due gialli nel giro di pochi secondi. Certo, esatto, questo è chiaro, questo è chiaro. Se lo dici una volta sono due gialli, no? Di fronte a una frase che può scappare, che non deve scappare, ma che può scappare, secondo me tu dai quell'avvertimento lì, poi se quello continua chiaramente lo cazzi. E questo darebbe, secondo me, molta più libertà agli arbitri di non girarsi da altre parti, no? Cioè di essere molto più liberi quando sentono qualcosa di dare, perché è giusto, è assolutamente giusto. Insigne ha sbagliato, Vidal ha sbagliato contro il Real, non è un discorso di una squadra piuttosto che di un'altra. È sbagliato, no. e deve essere non bisogna insultare. A me quello che dà fastidio, sinceramente, visto da fuori, è la difesa dell'insulto. Non si può difendere un insulto, ma in nessun campo. Non è che nel calcio, nella vita, al supermercato, cioè non è che se uno ti manda a quel paese, ah vabbè, ma era un momento, era nervoso. Però i Teppens in campo, come, cioè poi il campo è un contesto, vabbè, allora è un contesto agonistico. Allora, no, vabbè, ma vorrei Pierluigi non è in solitario. Anche un'entratacciaccia, no? Allora anche c'è il fallo, quello che gli inglesi dietro la parola frustration nascondono delle più le nefandezze, no? Certo, era frustrato e quindi ha fatto un'entrata e ha spaccato il ginocchio. No, ti devi calmare, devi stare attento, devi stare buono e ti devi controllare. Cioè, io continuo a avere questa visione un po', diciamo, sportiva, no? Dico, sì, è chiaro che se uno rosica, però poi non è che dietro questa giustificazione poi allora è permesso qualsiasi cosa. Ma non c'è bisogno Non permesso qualsiasi cosa, però continuo a pensare che il bravo arbitro sia quello che, al contrario di quanto dice Casarin, che ovviamente ha ragione lui, però che tiene conto anche del momento della partita, perché tornando a ieri sera, quando vedo comunque un arbitro che sbaglia, però al 14esimo decreta la fine di una partita con un errore, ma l'errore ci può stare, ripeto. Insomma, io rimango un po' infastidito, perché secondo me il momento della partita e lo spirito del gioco vanno letti e interpretati. Sì, guarda, è interessante, perché due giorni prima qui c'era stato un caso analogo, perché Raul García del Athletic Bilbao è stato espulso al 13esimo contro il Real Madrid per due gialli. Però nel caso qui, diciamo, spagnolo, i due gialli ci stavano, cioè quello ha fatto tre falli in 13 minuti, due da giallo, e se l'è preso. Un errore tecnico, il caso di singoli difetti. È diverso, tecnico, però non è che a priori dice non si può buttare fuori al 14esimo. No, si può, ma non dico fuori, non si può buttare, ma pure al primo minuto. Ma infatti non è questione di primo o ultimo minuto, semplicemente pesare. Il anche... che devi azzeccare, cioè che devi, devi fare le cose fatte bene. Però in generale io penso che delle volte le sanzioni più sono pesanti e poi meno diventano effettive, nel senso che un rosso, un cartellino pesante, e quindi porta molto spesso gli arbitri a non applicarlo, perché non, appunto per quel ragionamento lì che dicevate voi, per il buon senso, perché se poi il momento della partita, no, ma è una partita 5 contro 6. Quindi la soluzione, secondo me, migliore in assoluto è quella di trovare, ma ripeto, una roba della quale si deve occupare il board, non è che la può decidere l'arbitro di turno, Massa o Abisso o Ortato nella singola partita. Però un ragionamento, un ripensamento su questo io lo farei, perché invece è giusto che questo malcostume venga combattuto, ma è altrettanto giusto che venga combattuto di fatto, non che poi ci sta uno che fa in un modo e uno che fa in un altro, perché sennò non c'è più quell'uniformità che invece è sacro graal dell'arbitraggio. Traffico al volo, poi torniamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, avviso ai naviganti, ho 6 minuti scarsi, due ascoltatori in linea, Filippo Marrerici e Pierluigi Pardo. Faccio fare un radio tweet ai due ascoltatori, a cominciare da Alberto. Buongiorno. Dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo un parere telegrafico sul Torino. Sì. Io penso che tutta questa situazione che si sia venuta a creare sia soprattutto colpa di scelte sbagliate del presidente Cairo e sull'inadeguatezza di certi personaggi all'interno della società e della squadra. Grazie, vi ascolto per radio. William Venezia. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Volevo tornare ancora una volta sull'insulto di ieri. E devo dire che oggi sono sollevato, perché ieri ero un po' preoccupato. Preoccupato perché mi sembrava un tentativo un po' di sdoganare determinate parole in campo, mentre oggi sentendo Luca Marelli, per fortuna, mi trovo pienamente d'accordo, un calciatore specialmente a livelli professionisti con dei soldi incredibili non posso permettersi di offendere o di dare parolacce in campo. E quindi oggi devo dire che la vostra trasmissione mi ha un attimino risollevato il morale. No, ma guardi, non l'abbiamo fatta apposta, non volevamo neanche deprimerla. Il discorso è che su questo punto ognuno ha le sue sensazioni, le sue opinioni, se le ha, se ce le ha e se le tiene. Quanto al Torino, Pierluigi, rispondi tu? Sì, no, rispondo a tutti e due in 10 secondi. Quante espulsioni ci sono state dall'inizio del campionato per insulti all'arbitro? Facciamo una ricerca. Siamo sicuri che tutti quelli che hanno insultato l'arbitro siano stati espulsi? Questo è l'unico tema, secondo me, e vale in generale. Poi che la cosa dell'altro giorno sia stata corretta dal punto di vista del regolamento è indiscutibile. Sul Torino io credo che il Torino ha perso tante partite in rimonta, ha perso tante partite negli ultimi minuti, deve cominciare, è banale, deve cominciare a vincere qualche partita come un tappo di champagne che deve scoppiare, no? che deve uscire. Io penso che la squadra valga molto di più della classifica che ha. Sicuramente negli ultimi anni alcune scelte societarie non sono state azzeccate. Detto questo, io credo che ci voglia, soprattutto la parte nostra, poi per il tifoso è diverso, ma da parte di chi valuta, di chi dà opinioni, un'analisi un po' più complessiva. Insomma, questa è una gestione che ha riportato il Torino in alto. Poi sicuramente negli ultimi anni questa tendenza alla crescita si è invertita, il Torino sta facendo male e sicuramente sono stati fatti degli errori, delle responsabilità anche da parte della società, questo è indiscutibile. Però se guardiamo gli ultimi 15 anni, 20 anni di storia del Toro, sono stati anni comunque di ripresa. Questo sì, va detto, perché nel momento nel quale poi si valuta un presidente, no, devi valutarlo su tutto il corso, su tutto il ciclo, tutto. Poi certo. Ultimamente le cose non stiano andando, questo è evidente. La stagione scorsa è stata una stagione da incubo questa necessità. Questa si tratta di mettere una, così, un'asticella dove puoi arrivare ad avere pazienza prima di prendere provvedimenti. Però è chiaro che questa squadra, così com'è, per come sta giocando, non può far altro che lottare per non andare in Serie B. Oh, con Filippo abbiamo aperto con Ronaldo e la faccetta, volevo chiudere con un altro suo amico, e cioè Mourinho, che perde contro... Cosa ridi? Perde contro Klopp e gli dice: lì oggi ha perso la squadra migliore. Questo mi riporta indietro al, che nostalgia, al 2006, quando disse lo stesso dopo l'eliminazione con Liverpool nella semifinale. Io ero lì ad Anfield, è uguale. Best team has lost. È così. Vabbè, la squadra migliore. Posso dire, no. Mu is back. Esatto, questo per me è la cosa importante, perché oggi ho letto un bellissimo articolo di Jonathan Wilson sul Guardian che diceva: se Mu fa così vuol dire che Mu ci crede, e c'ha ragione, perché è tornato ad essere brillante. Perché a me, questo è stato ovviamente, diciamo, l'epilogo interessante di questa partita enorme che si è giocata l'altro giorno, però la cosa più bella è venuta in serie di vigilia. Quando gli hanno detto che il Liverpool aveva gli infortunati e lui comincia a snocciolare tutti quelli che non sono infortunati. E poi dice: anche noi abbiamo 10 infortunati, 3 dell'under 16, 2 dell'under 20. E lì è bellissimo. Cioè, io, quando fa così è il numero uno, è troppo divertente. Cioè, e quindi vuol dire che è tornato. Mu is back, e questa è la cosa. Lui ci crede, sente odore di scudetto e dopo tantissimo tempo, perché io... ho visto un lungo declino, adesso per me Mourinho è ma poi capito col 24% di possesso e la mano si vede, la mano si vede, sono lasciato perdere la partita l'altro giorno, ma il Tottenham gioca un calcio verticale che non è il calcio di possesso. L'altro giorno Liverpool ha avuto il 76% di possesso, ma se tu guardi alle occasioni, le occasioni le ha avute il Tottenham. No? La traversa di Bergwijn, l'occasione di Kane, un'altra occasione mi sembra di Sono, per di Bergwijn. Questo Mu is back, possesso palla non interessante. Però la cosa bella è quando lui, a me, quello che a me dispiaceva, perché io ho visto l'inizio del suo declino, avviene qua, a due passi da casa mia, al Bernabeu, e lì lui si perde. E per tanti anni adesso ogni volta in conferenza stampa, tanto è simpatico, è tornato ad essere simpatico, che è fondamentale. E poi è brillante. E ci vuole gente così. È proprio. Senti, secondo te per paro, sì, devo chiudere, ma l'Arsenal si salva, secondo te? Beh, pareggio con Southampton. Southampton mi ha dato grande ottimismo, grande speranza. Pensa come sì sta che si salva, dai. I Gunners via dalla Premier League. Non posso dire, guarda, che non escludo nulla. No, si salverà. No, però prevedo a febbraio, cioè mi immagino una stagione dove a un certo punto sarà in zona di retrocessione, poi penso che farà 4-5 vittorie consecutive. Questa è la speranza dei tifosi dei Gunners. Grazie ragazzi, sempre bellissimo. Per Luigi Paolo, ciao Filippo Mariani. Ci sentiamo domenica a tutti i convocati weekend 17-19 con Giovanni Capuano, Pietro Corte in regia, Marco Santoro con Giorgio De Luca in redazione. Ciao a tutti ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ciao Radio 24, saluti.